America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. Starting in January we will be purchasing $75 billion of securities a month, reducing purchases of treasuries and mortgage-backed securities by $5 billion each. Ben Bernanke, la svolta di Bernanke, finalmente il tapering è arrivato, il governatore della Federal Reserve, il presidente della Federal Reserve ha dato un addio trionfale, devo dire, ai mercati, al pubblico americano che in qualche modo gli deve essere riconoscente perché se l'America è già in forte ripresa e anche in gran parte dovuto a lui e agli economisti che lo hanno seguito, alle banche. Perché? Beh, perché ieri è stato il suo ultimo comitato monetario, quello in cui ha deciso appunto di cominciare a ridurre le iniezioni di liquidità sul mercato, iniezioni di liquidità che ammontavano a $85 miliardi al mese, ha deciso, vi dicevo, di ridurle di $10 miliardi al mese, un approccio graduale di quelli che i mercati apprezzano, proprio perché non ci sono degli shock, né ci sono, devo dire, delle azioni così inconsulte, improvvise, inattese. Ben Bernanke aveva annunciato da mesi che il momento sarebbe arrivato, aveva creato le condizioni anche macroeconomiche, aveva anche annunciato le condizioni macroeconomiche che avrebbero determinato queste sue scelte e naturalmente le scelte poi del suo consiglio, del suo board che con lui gestisce l'economia monetaria, che con lui gestisce le scelte di politica monetaria americana, una decisione soprattutto presa in strettissima consultazione, lo ha detto lo stesso Bernanke, con Janet Yellen, che diventerà presidente della Fed, la prima donna ad assumere questo incarico a partire da gennaio. Le operazioni di tapering, quante volte ne abbiamo parlato di questo tapering, finalmente è arrivato, cominceranno a gennaio. Dunque una grande svolta, una svolta morbida, un atterraggio morbido, anche perché la reazione del mercato, che tutti pensavano sarebbe stata negativa, timorosa, chissà come andranno i mercati quando si capirà che la Fed non interverrà più come nel passato con questa iniezione di liquidità, la reazione è stata, beh, sentiamo Wall Street. Beh, la reazione di Wall Street, lo avete sentito, il campanellio è stato un applauso a scena aperta per questa decisione di Bernanke. Il Dow Jones, dopo, attenzione, dopo l'annuncio di questa decisione, ha fatto un balzo dell'1,84%, ha chiuso a 16.167 punti, il massimo storico, un nuovo massimo storico per l'indice Dow Jones, un balzo di quasi 300 punti. L'S&P 500 ha chiuso con un aumento dell'1,66%. Quota 1810,65, un nuovo record anche in questo caso. Il Nasdaq, un aumento dell'1,15%, siamo a quota 4070. Dunque le borse hanno reso omaggio a questa decisione di Ben Bernanke e devo dire un po' dappertutto ci sono stati commenti molto positivi, tranne che, beh, devo dire da noi qualcuno si è permesso, e uso questo termine perché alcuni hanno anche la presunzione di voler spiegare alla Federal Reserve come deve condurre i suoi affari, di criticare questa decisione. Insomma, la gente non è mai contenta. Se Ben Bernanke non fa il tapering, ci si lamenta. Se non lo fa, ci si lamenta. Beh, insomma, è difficile accontentare tutti, ma intanto sentiamo di nuovo Bernanke. If the incoming data broadly support the committee's outlook for employment and inflation, we will likely reduce the pace of securities purchases in further measured steps at future meetings. Ecco, qui Bernanke elabora su altri aspetti chiave che riguardano le scelte di ieri, perché quella del tapering è stata soltanto una parte dell'equazione monetaria, perché sia nel comunicato che in conferenza stampa il governatore ha aggiunto precisazioni su altre variabili, ha confermato intanto che tapering non significa tightening, cioè non significa stringere sulla politica dei tassi di interesse, sono due cose separate. I tassi di interesse sul mercato interbancario, i tassi a breve, sono regolati direttamente dalla Federal Reserve, le iniezioni di liquidità, quelle su cui ieri si è agito, sono una cosa diversa e dunque i tassi, tutti si aspettano, ma del resto Bernanke stesso lo ha detto, resteranno su questi livelli molto bassi per tutto il 2015 e forse per una parte del 2016, molto bassi vuol dire vicino allo zero. Tassi a breve, è chiaro che può esserci un ribalzo dei tassi a lunga. Sul piano tecnico, Bernanke anche ha formalizzato quello che avevamo già capito da qualche settimana, cioè che un tasso di disoccupazione al di sotto del 6,5%, che era stato annunciato tempo fa come punto di riferimento macroeconomico, e quindi una determinante per poi procedere con un rialzo dei tassi a breve, non lo sarà più. Anche se si andrà al di sotto del 6,5%, i tassi a breve resteranno bassi. Una rassicurazione dovuta al mercato, che ha visto il tasso di disoccupazione scendere rapidamente fino al 7% negli ultimi mesi e che pronostica già nel 2014 una riduzione del tasso su quei livelli. Infine, quarta variabile molto importante nell'equazione monetaria di ieri, l'inflazione. Bernanke ha detto che la terrà sotto osservazione, la Fed, anche quando lui non sarà più alla Fed, sarà sotto osservazione. Perché? Beh, perché si è registrato un aumento dell'indice dei prezzi inferiore ai target del 2% su base annua. Ecco, dunque abbiamo inflazione bassa, crescita dell'economia al 3,6% per il terzo trimestre, 2 milioni di nuovi occupati nel corso del 2013, un tasso di disoccupazione al 7%, il disavanzo pubblico sul PIL è sceso al 4,1%, siamo, secondo me, in circolo virtuoso. Direi che è inutile polemizzare con coloro che attaccano la Fed dicendo che sbaglia e continua a sbagliare e ha fatto male. Credo che alla fine siano i fatti a parlare da soli, i fatti che a noi in Europa mancano ancora. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, continuiamo, spirito natalizio. Ben Bernanke ha fatto un bel regalo agli americani con questo suo annuncio e con la reazione conseguente dei mercati. E dunque, parlando di Natale, Eartha Kitt, Santa, Baby, Babbo Natale. Babbo Natale questa volta e Ben Bernanke. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Da New York è tutto, Simone, ti ripasso la linea. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.